Ottimo. Il primo triangolo ha un'ipotenusa di 10 chilometri, mentre il secondo ha un'ipotenusa di 5 chilometri. Sulla leggenda, lungo il bordo della mappa, è riportata un'associazione tra lettere e numeri. Sapete quindi che 5 corrisponde alla lettera T, mentre 10 corrisponde alle lettere ES. Con queste informazioni sapete decifrare la direzione da prendere?